Giulio, le mosse sono andate, adesso passa al forno, preparazione. E vabbè, dopo chiamo tutti i cibi, telefono tutti i cibi e veniamo tutti a casa tua a mangiare. Lui preparati che andiamo dopo da Graziano e mangiamo a casa sua, tanto sta preparando tante cose, perciò ce n'è per tutti. Bene, va Graziano. Se vuoi una mano vengo io a aiutarti a cucinare, a fare la pasta al forno, se vuoi vengo io. Già tutto avviato, guarda, mi sono rimaste da preparare i bell'agnoni in agliata, ribosso, la gioia buttiti, li ho messi a scolare, le mosette le ho già fatte e sto preparando la teglia della pasta al forno, io sai che avessi altro forno, va bene, che vado, poi rientro. Oh Giulio, ma quanto mangia che sono Graziano da voi? Sto preparando tutte queste cose, quanto può mangiare che sono? Un bel magna, aspetta, è pensare che si deve regolare, e poi magna un bel, un va. Infatti, lei Rosi non ne vuole più la vita, lei, non sa come di combattarlo mio, e me l'ha già detto una volta cosa di mia mamma, ma non so se l'ha fatto, però. Graziano in gamba è un tipo molto allegro, molto comune, dunque no, non ce ne sono più problemi con lui, è un amico insomma, ecco. Graziano, non mangiare assai, mi dagati un poco per domani, buono, è meglio. Capito Romeo, lui? Sì, il frigorifero quello all'americana, quello un armadio praticamente, due sfocciature grandi, alto, mi sembra che è alto 1,80 m, 1,90 m, questo è un frigorifero, e largo sarà 1 metro, circa, non so di preciso, però abbiamo questo pozzetto che è da 1 metro, 1 metro per 70-80, è profondo lo stesso, sarà alto 1 metro da terra, e quello, ripeto, ce l'abbiamo 30 anni, non si è mai guasciato, mai. Pensa, nemmeno il fulmine, ragazzi, da là, è riuscito a bloccarlo, perché l'altra volta quando era entrato il fulmine ha fatto un rumore, ha fatto questo pozzetto, trattava proprio una cosa come da lì, si è scoppiato il motore, invece no, niente, sono andato, ho attaccato la corrente, perché qui era soltanto la corrente, ma avevano bruciato due barattini, l'alimentatore, il router del computer, insomma, danno, già me l'hanno fatto. E sono andato, ho attaccato la corrente e lui qui di nuovo da capo. Te lo immagini? Incredibile, ragazzi. C'erano più di 30 anni, l'avevo comprato al corso, l'avevo comprato da Palmieri, lì di fronte dove c'era una bottega edicola, c'è un negozio, non so se c'è ancora, l'avevo comprato da quel deficiente. Però mi ha preparato un buon elettrodomestico, non si è mai guastato, l'ho più di 30 anni. Ciao Luigi, da parte di Rossi. Oh Giulio, mi date giù la mezzurina, da me con l'insulina che ha fatto. Ti saluti la macchina d'oretto, olio. Se ti trai, Luigi. Rossi ha detto che non lo manco d'oretto, ti saluti, perché non si è fatto nemmeno l'insulina, non si è fatto. Ti puoi immaginare? Preso le fornelli, Rossi. Tieni la mano, guarda che è pericoloso, mi. Stanotte è pericoloso, Graziano. Ehi, lui è Giulio, era sempre, il colazzo saltarotti. Ehi, Arrusi, ma adesso deve rimanere, allora adesso prepara a ballare, adesso non mangia da voi assai, adesso deve rimanere un po' a dieta. E se no, capita, faccia l'insulina puro, non è che puoi esagerare più di tanto, può mangiare al massimo 2 mozzetti, per passare al forno quasi niente, lui pide d'agnone si può mangiare, e bue, base, e poi ad accoccarsi, Lui, ha più che gustigia, chiama cuta, mi curitenne, aspetta che ti attacco dove su, a babbo e a fare, cucina. Che si sa per questi magnoni, Graziano, no, no. Si sa per cucinava, sì, ma che non mangiava così un bene, che si sa, poi non mi dico che mangiava così un bene. E giovane già mangia, sì, e lasciamo mangiare. Da me, chiaro da me, e già si sa regolare comunque. Chiaro qui. Ui, ui, ui. No, in quanto a quello già è tovo, già lo so, in cucina lui, so che è bravo, perciò. Quell'intendi, se passa gente, se che andare a cucinare tutto quanto, la mangiato gli ami della zena, l'ho mangiato lui. E mai così, no, a me da me che Cristo mi fa, pure le notte la giudizia, le manazzina, no? Verso l'otto, così e cose, un po' di arrostiglio, se avevo una greffetta, tutta arrostella, in genere, chiaro un fianco della carri e cose, gli ha chiesto me la zazienna a me, però già ho mangiato, io non ho mangiato abbastanza, e dico aspettami, ho bevuto quattro bicchieri di vino pure, un quarto di vino me la devo evitare, no, dico la non di più, però un quarto di vino me l'ho bevuto, mi ho bevuto un goccio d'acqua a vite per digerire, però me l'ho bevuto, un quarto di vino me l'ho bevuto, tre bicchieri di vino me l'ho bevuto, sì, senza esagerare, me l'ho bevuto e mangiato ieri notte, dico la verità, tre bicchieri, ma non si fa tre bicchieri, voglio dire, quelli di plastica, mezzi bicchieri, dai, no, tre bicchieri, tre settimane, no, tre bicchieri di plastica, ma a metà pure. Ho capito lui, sì, no, io non ne bevo, no, non mi interessa. Il vino proprio, cioè, non solo il vino, tutta la cosa alcolica, ho di tutto qua, ho di tutto, io devo di tutto. Dai liquori al mirto, agli sfumanti, al vino, addirittura anche il Don Perignon, si può immaginare, il Don Perignon da 2 litri, no, non le beviamo qua, noi no, non siamo per queste cose qua, al massimo, proprio al massimo possiamo assaggiare, non bene, assaggiare, un mezzo bicchiere di sfumante, ma non di più, non mi va, la verità, non mi è mai andato il sapore, il gusto della cosa alcolica a me, ma nemmeno la birra lo stesso, ce l'abbiamo la birra lo stesso qua, per quando viene qualcuno, e poi quando vengono i miei parenti non li vedo le manchette, se che ti puoi immaginare. Siamo lì, ma alle volte qualche amico, qualche conoscente, non è un problema. Mentre invece consumiamo abbastanza come cosa, ginger, Coca-Cola, aranciate, queste cose, poi di quelle già le consumiamo, ma roba alcolica niente lui. Ma dico una cosa Giulio, proprio una cosa, se tu ti becchi durante il giorno un mezzo bicchiere di vino a pranzo, un mezzo bicchiere di vino a cena, anche un bicchiere intero, fa meglio di bere l'aranciata che la Coca-Cola fa malissimo. Io dico senza già, io non esagero, non lo bevo tutti i giorni perché bevo l'acqua, e la Coca-Cola la metto da parte e non la bevo, preferisco l'acqua sinceramente, non la bevo perché so cosa ha fatto a qualcuno la Coca-Cola, so cosa, quello che ha combinato una ragazza qui a Ottava che se ne beveva una bottiglia di 2 litri al giorno tra pranzo e cena, lei beveva solo Coca-Cola, e al giorno si beveva sempre la bottiglia di 2 litri la Coca-Cola. Questa ragazza ha dolori, non so, per gli avalauri, per la schiena, cioè, addirittura non poteva stare dolori alla schiena, questo dolore gli veniva la forza nella schiena, non capiva, vite contro vite, sai cosa è successo a questa ragazza, che è qui al bar, che hanno preso in gestione il bar, adesso questo che c'è là con bar, da bacchino. La Coca-Cola, questi acidi, gli ha bucato lo stomaco, il dolore che lui gli sembrava che erano la schiena, la cosa era, lo sapeva, lo stomaco, gli ha bucato lo stomaco. Sì, certo, se si esagera con queste cose non è che va molto bene, in effetti lo sappiamo, la Coca-Cola è corrosiva, questo sì, perché io... qualche amico una volta aveva messo, adesso non mi ricordo che fosse, però aveva usato la Coca-Cola per mollare un bullone che era arrugginito, no? Dice mettigli un po' di Coca-Cola, uno gli ha detto, vai Coca-Cola, mettigli la Coca-Cola, vai, ne aveva una porta quello lì, nel sabio, e ce l'aveva una lattina di Coca-Cola lì in officina, ha preso, l'ha aperta. infatti lei come si accusa quando la vengo un burro e un goccio l'ha messa sul bullone. Beh, lo sai che dopo un po' andato e ha mollato il bullone che era arrugginito, che non ce la faceva in nessuna maniera a mollarlo, eppure con questo coso l'ha fatto di esossidante ed è riuscito a mollare il bullone senza romperlo. Sì, le catene mettono a bagno la Coca-Cola quando sono tutte arrugginite, quelle catene sia di moto, di biciclette, di vite, che sono per smollarle bene, mettono nella Coca-Cola. No, tu non devi fare lo sbaglio di mangiarti una menta, una caramella alla menta, quello non devi fare quello sbaglio lì, perché io l'ho fatta, l'avevo vista una volta in televisione, poi l'abbiamo fatta, abbiamo provato a fare un paio di volte questa prova alla Coca-Cola, prendere una caramella di quelle bianche alla menta, e tu gli tappo la Coca-Cola e buttagliela dentro, però allontanati, tu guarda se c'è la pressione, sale quando non riesci a vedere tu, non ci rimane un goccio di Coca-Cola dentro la bottiglia, se non scoppia, con una caramellina di menta dentro, figurati se te la trovi nello stomaco. Tu fai quella prova, non la sapete, io l'ho visto in televisione, poi abbiamo provato a farlo noi perché non ci credevamo. Abbiamo fatto con una bottiglia piccola, quelle da mezzo litro quanto è, di quelle lì, abbiamo buttato dentro la caramellina della menta, guarda, non ci è rimasto un goccio di Coca-Cola, da pressione dove ci è uscito Giulio, una cosa impressionante. Figurati se ti trova questa caramella in corpo quando ti butti la Coca-Cola. Certo che indubbiamente c'è una compressione enorme, pericoloso così, sì, e pensare che gli americani l'hanno inventata la Coca-Cola, ragazzi, da sono grandi consumatori di Coca-Cola, vabbè, non so se quella che abbiamo noi qua forse sarà diversa, io questo non lo so, però diciamo è noto che gli americani sono grandissimi consumatori di Coca-Cola. Va bene, ci sono tanti, ce ne sono che sono grossi, ragazzi, da come l'armadio, le persone, ce ne sono tantissime, perché oltre a quello fa anche ingrassare, oltretutto, la Coca-Cola, oltre al fatto che gonfia, ma fa anche ingrassare, perché ci sono gli zuccheri, ci sono, e tutte queste cose, non è che va molto bene, la verità, capito? Io ho questo programma un giorno, siccome a volte ti arrivo presto, io avrai tre, mi guardo quel documentario, c'è quella donna che fa quel coso, che parla della natura, della cosa, ci sono i bambini che fanno vedere queste cose degli animali, delle scene, le cose, i fenomeni che fanno, prove contro prove. E hanno visto che questo ha fatto questa prova, ha fatto vedere cosa poteva, stava spiegando ai bambini, cosa poteva succedere se bevevano la Coca-Cola insieme con la caramella da menta. Ha preso una menta di quelle bianche, quelle caramelle da menta bianche, quelle bianche rotonde. Ha preso una bottiglia di Coca-Cola, ha tolto questa provetta fuori all'aperto, ha buttato dentro la bottiglia, è partita la Coca-Cola da dentro, e poi abbiamo provato noi a vedere se era così la cosa. Cavolo, se era così. Ho fatto vedere televisione, l'ho visto in televisione, a Rai 3 l'ho visto tanto tempo fa, questa cosa, ha fatto vedere, stava facendo vedere ai bambini, e loro bevevano Coca-Cola e assumevano una caramellina di queste cose, di menta, succedeva questa reazione qua, capito? Così è pericoloso, così è pericoloso, resta, così esce la Coca-Cola dagli occhi, per carità, no, bisogna fare molta attenzione. Sento un profumino che sta salendo, da giù sta salendo un profumino qua, di borsetto, la casa ce l'ho più di vino, no? Sì, che mia moglie ha messo in forno, il borsetto ha messo in forno, e ne sta salendo tutto il profumo, bello, per venire l'appetito. E lui, cosa gli dici tu? Che faccia quell'effetto? Di prima, hai capito, ma dopo io vabbè mangio di meno, già mangio la parte mia, ma i ragazzi mangiano di più giovani, loro mangiano di più, già mangio pure io la parte mia, me la mangio, perché non è che no, grazie a Dio non ho problemi di niente, però no, sto cercando di non andare oltre, mangiando, vabbè, a bere non è che bevo, te l'ho detto, perché quando sono in fretta e compagnia così, posso fare quei 3 mesi bicchieri di vino, e da poi quando lo vuole dovrei fare è un bicchiere di quelli grandi, non è che però non vado oltre di disagenti, bevo perché, no, lo bevo perché dico la verità, mi piace bene un po', buono, vino buono, perfetto, però non esagero di continuare, ho bevuto anche birra fatta in casa, l'ha fatto questo amico di mio figlio, quella birra scura che forte, anche quello ho bevuto prima un bicchiere, quella birra lì era ultima nera, fatta in casa da lui, è fatta lui la birra, è fatta artigianale da lui, fatta qualche giorno prima da consumare subito. E ho bevuto anche quello, un bel bicchierotto di quella birra, me l'ho bevuto, era buona, l'ho gustata, mi è piaciuta, diciamo, l'ho bevuta all'inizio, l'ho bevuta anche bene, e poi ho bevuto questo vino, poi no, ho bevuto, mi pare, un goccio di cos'era, di liquore, di grappa, ma un goccetto proprio, ma una puntina proprio per digerire, e niente, caffè non ne ho voluto, che era già mezzanotte e mezzo, e l'una, e se no lascia perdere il caffè, non dormo dopo, già voglio il buon sonno, mi ero alzato alle 4 la mattina che ero a Cagliari, già tu mi hai detto che stavo rientrando, che ora era, non so neanche me lo ricordo, già buio, stavo rientrando da Cagliari, e niente, caffè la notte non ne ho preso ieri notte, però mi sono alzato alle 9 stamattina, tranquillo alle 9, e riposato e tutto. Ok, no, io da GVT non ho cominciato come da dei stavo dicendo, lui, sentite la cosa che ha detto, dice che ha comprato una slitta, a Graziano non siete nella slitta, non voglio fare a doggia, non voglio andare a disciplinare. Vero Rosi? Eia, non ho comprato una slitta! Giulio, hai fatto la sera da letto, mi fa la doggia già per un campetto! Sentite lui, ha detto che non voglio fare la doggia, non voglio. Lui è positivo, io poi c'è del fumare, quasi arrivi pure la neve, in altura ha messo neve, ha messo domani mi pare che sia tempo così, e mi pare che avevo sentito che le previsioni, anche ieri l'ho sentito un po', ma dire che stava mettendo un po' tempo brutto, quello l'ho sentito, mi pare che sia fredda assai, come freddo non ce ne sono dolfino così, io leggere, senza riscaldamento, non d'atteso, poi no, dove sono qua, io in questo giorno, vabbè, per la mia attesa, c'è la legna, c'è il fuoco, però qua, sto benissimo, non ne ho freddo, non sto bene, c'ho caldo, bene, più normale, e sono il magliettino, il golfettino qua, che sta a cameretta, no, e non sento freddo, dai, freddo di nuovo, c'ho caldo, i piedi caldi, addosso c'ho caldo, no, non c'è temperatura fredda. Sì, beh, certo, lui la giornata non era molto fredda, no, la verità no. Io stamattina sono dovuto andare per comprare alcune cose che ancora servivano a casa e sono andato con il negozio giù in fondo a piedi, da dove abito io, sino a quella dove abita Walter, già lo sai dove abita Walter, lì c'è un nuovo negozio aperto, sarà un anno aperto nella Sisa. E sono andato lì così, e tra l'altro da quelle parti abitano anche due miei fratelli abitano. Da quelle parti lì. E devo dire che al ritorno poi con due borse che avevo di spesa, ma di cose nemmeno molto pesanti, ma è un chilometro quasi, saranno almeno 800 metri di strada, e quando arrivare a casa ero anche accaldato, se che ti puoi immaginare, no? Infatti appena sono arrivato mi sono tolto subito il giubbotto, anche se ero uscito con un giubbotto molto leggero, e poi sono uscito di nuovo addirittura senza giubbotto, però con un maglione che sotto ho solo una magliettina a mezza manica che ho sotto, no, io la verità il freddo non lo soffro, no, anzi, quando mi metto troppe cose addosso mi dà anche fastidio, dopo penso con i giubbotti pesanti eccetera, meglio zinco di giubbotti, non mi immagino, però io preferisco sempre quello leggero, già lo uso, già li uso anche gli altri perché già li uso. Però, ripeto, io per me quando prendo quello leggero, che tra l'altro questo leggero è di mezza stagione, invernale diciamo, non è nemmeno né ammortito né niente, però quando lo chiudi con l'accendia la lampo, no, dentro il calore del corpo, siccome è plastificato, anche se piove non passa acqua, rimane tutto il calore del corpo all'interno. È come se tu avessi un giubbotto di quelli dell'alta montagna, capito lui? E ti fa anche sudare, quando cammini ti fa anche sudare. che tanto è vero, io la maggior parte delle volte me lo tengo aperto, me lo tengo, se no quando devo camminare mi vado a disusare, anche perché camminare piano non ci riesco, ho sempre un passo abbastanza retto, spedito, insomma, noi quello lì comunque un passo abbastanza retto quando io vado nei posti, capito lui? Ok, vediamo un po' cosa mi racconta ancora Rosy di Slitta, ma buon Natale gliela ha portata alla Slitta a Graziano Rosy. Diciamo la carne puri che abbiamo cucinato dentro, si sono arrangiati sento, sono aggiustate le docce. No, no, stanotte no. E poi questo io non è più cosa bagnata, giù ti mi è rimasto, tutti ci mi è rimasto da. E solo pure assistiamo in frise, no? È peccato buttare in quella dove mi sono fame, se ne capo, se muoio a scongelare, se muoio a fare un cuore, se la mangiamo, capito, no? Piace e basta, non è anche. Anche la carne, in qualche maniera la fai, che costa pure nel corpo, ma è cotta. Non butto un'esagerata, troppo carne, per cazzo buttata. Infatti anche quella cercherò di sistemarla in fritte e poi dopo le spezze in qualche maniera si passano a stessi. Certo, io non mi via. Sì, no, perché buttare è un peccato, lo metti in freezer, al limite, quando uno si consuma si mette in freezer e già poi già si può consumare negli altri giorni a venire, no, non è un problema, io lo vedo. Se noi pensiamo a quelli che stanno morendo di fame, figurati, cazzo, con quale coraggio andiamo a buttare il cibo? No, non è possibile, ma sarebbe un sacrificio, no, non si deve fare una cosa del genere. Bisogna, a parte il fatto che è sudato, perché abbiamo lavorato e dunque abbiamo anche speso, per fare, hai speso 300 euro di gas, sono in gas, ti puoi immaginare, hai un bieno un bozzetto, hai un bieno, no, hai un frigorifero, ha voglia. Ma succede, no? In questi giorni così di festa, uno all'anno, due col Ferragosto, non è che cosa vuoi fare, vabbè c'è Capodanno, ne abbiamo anche per tutto Capodanno, e io voglio, non vedi, in avanza bombe, in avanza. D'altronde, sì, ma è così. Ah, al mercato l'avevo comprato io, poi certo ho comprato al mercato a 10,90 e la mia 9 ce l'ho pagato a 9,90. L'ho pagato. Pensa che nei supermercati il porcetto era quasi a 14. Fatelamelo vedere, vado al mercato, intanto sono migliori sicuramente, sono riusi, no? Tant'è vero che il giorno che sono andato io, la via lì al mercato, c'era proprio il pastore che gli forniva, no? Era vicino a me, davanti al banco lì anche lui, perché gli aveva appena portato del materiale, del corso, l'avevo portato nelle salsicce, anche gli avevo portato nelle perette, queste cose qua, no? Lui mi ha portato questo, i porcetti sono di uso, lui li ha portati, mi ha detto Savia, siccome Savia lo conosco, capito? E poi è conosciutissimo al mercato Savia, io l'abbiamo, no? Lo sai chi è, no? Hai registrato il prezzo, no? Sono tutto presente, no, ma io al mercato non prendo dei porcetti così, le prendo direttamente da pastore, che mi hanno chiamato un attimino. No, da gente che conosco Uzi la prendo, io a volte mio figlio, quello che ha Uzi, che abita Uzi, lo procura da amici suoi, da parenti della moglie, capito? E anche qualche maiale a volte prendiamo da questi qua, e se faccio assaggiare, sai che faccio salsicce a volte, queste cose così. E allora non ci vado mai, ne aveva anche mio nipote Pannino, che ha fatto un allevamento di maiali qua sulla zona di Sorso. Anche lui si è piantato delle troppe, dove c'è pianta orto, queste cose così, e c'è un po' di roba da dargli a mangiare, e allora si è messo questi maiali, e anche lui ne aveva di porcini belli, ha fatto tutto in regola, ci fa la UZI, fa i controlli, e ha messo le cose, no, ha fatto il coso, una piccola porcellaia, ma a norme di coso, tutto in regola, ci fa il coso sanitario, fa i controlli, le visite, le cose, capito? Anche lui Palmirio me li pompe, già si trova a volte a fare a Palmirio, anche lui ce li ha fatti i porcini. Ha fatto bene, visto che c'è il posto, ha fatto benissimo, c'è stato un break, avanti break. Ehi capo, buonasera, ciao Giulio, buonasera, mi ascolta, è tanto mio ascolto. Buonasera, buonasera Priscila. Ok, ciao Franco, Luigi c'è, te lo mando avanti, avanti per Franco. Positivo, Franco, Francesco è un Franco, questo è Francesco allora. Franco di discorso. Luigi, mettiamo Francesco, grazie, hai ragione. Già. Ciao Luigi. Ma poi sono entrata perché ti volevo chiedere una cosa. Ma la cosa poi si è dimenticato il nome, ha detto che è possibile che il tratto si è dimenticato il nome. Ecco perché si è tratto. E vabbè, mi stai dando la tagliola, non mi sei. Ascolta, c'ho in mano, se non riesco a... un garattino che mi hanno dato, no? Modello vecchio della Midland, da base. 78574 ed è un SD e AM solo e basta. Ma se sapevi come aumentargli la diciamo l'amplificazione si va a potenza. Allora quanto è grande? Perché mi pare ce l'avevo poi uno di quelli lì, l'ho avuto io uno di quelli, mi pare che l'ho avuto. C'ha 40 canali c'ha quell'apparato, c'ha 40 canali e in AM e non c'ha l'FM, l'FM c'ha però. No, negativo, non c'è FM, c'ha solo USB e AM. Di buono. E cos'è che non riesci a fare andare tu, che non ti fa di potenza, non ti stare di fatti o per cosa? O di radio? Allora, c'è la radio bassa e anche il segnale basso, perché c'è solo con due bassi. Allora aspetta una cosa, bisogna vedere, allora quando lo apri, bisogna vedere, perché non è tutti che ce l'hanno, perché la radio VR14, giusto Giulio, il VR14, però non sono tutti che ce l'hanno, il VR14 così, il VR13 per regolare il batti e cose, non sono tutti, perché poi c'è la LC della radio che si trova tutto da un'altra parte quando non c'è quello lì, hai capito? Per aumentare di radio. Bisogna vedere, aprirlo e vedere se tu hai avuto possibilità di aprirlo, hai visto che c'è questo VR14, l'hai aperto tu. Sì, però non ce l'ha, perché io quelle sigle ce le ho perché l'ho fatto anche con l'altro, con la Conne, tutto quanto, tutti i ricordi, e è andato tutto bene, ma qua VR13, VR14 non ce l'ha. Qua c'è un VR, eccolo qua ce n'è uno, ed è un VR202, VRV anzi, non VR, R2, quello degli RV. Dov'è vicino dove c'è quel modulatore, quello lì, 202, attaccato al modulatore? No. E vicino al modulatore non c'è, non lo vedi tu, non ce l'hai aperto tu, ce l'hai chiuso, giusto? Sì, che ce l'ho aperto. No, non c'è niente vicino al modulatore. Gianni KP2, buonasera, ti ascolto. Non c'è vicino alla... hai capito quella bobina del modulatore? L'hai vista quella lì vicino, un trim lì vicino non c'è. No. Non è vero, non vedo niente qua. Ecco qua. C'è la bobinetta e ce ne sono due. Dietro è la chiave. Allora, questo è RV. RV7, RV7, RV8, RV8. Basta vedila. Aspetta, il KP2 ce l'ha preciso adesso. Già nel KP2 sta dicendo che ce l'ha preciso quella farà. Ce l'hanno gli apparati prima per la radio, ce l'hanno tutte, capito? Ce l'hanno tutte. Niente, fra, bisogna vederlo perché non toccare, perché se il trim e tu tocchi quelli sbagliati scompone tutto, no? La scompone, capito? Ma perché bisogna stare attenti, perché bisogna stare attenti, bisogna pensare a attaccare lo strumento e guardare, prima di tutto guardare il gimbal, perché se tu lo sposti poi stai spostando, perché l'otto, Giulia, cos'era l'otto, non me lo ricordo più, l'otto e il 7, cioè così hai mai detto, Franco. Scusate un attimo, dai, mi hanno chiamato, vi devo lasciare. Ciao Luis, salutoni, auguroni, ci sentiamo eventualmente domani, forse più tardi, non lo so. Ciao Franco, auguroni anche a te famiglia, che è Gianni Capri 2, alle prossime ci sentiamo, mi hanno chiamato, dai, devo scappare urgentemente. Riprendi ancora lui, dai, ci sentiamo, auguri a famiglia, ciao. Ciao! Ciao Luciano, ciao Rosi, auguri, ciao. Ciao Giulio, auguroni, allora, buon divertimento per stanotte, ce la aspettiamo tutta le prossimine. Certo, io a Gianni Capri 2 non lo sento per niente. È positivo. Ma tu questa cosa lo potresti attaccare a provare e vedere. E proviamo a regolarlo. Tu lo puoi attaccare a questa cosa. Ma io ho ragione, già vicino lo voglio educare, sai perché? Perché se funziona bene, sì che lo posso attaccare, perché no? Però perché funziona benissimo, funziona, anche se esce basso, quindi se lo faccio sentire, gli metto la cover, gli metto e se glielo porta, e poi te lo faccio sentire. Perché tu basta toccare quelle proprio attaccate alla, come si chiama, al modulatore, vicino al modulatore, e tu guardi la posizione come è messo e provi a aumentarlo a vedere, quello risponde davvero, guarda, io ti ho ascoltato e dico sì, è quello lì, però devi guardare la posizione come è messo e lo ritorni lì. Ma il modulatore qual è? C'è la bobinetta piccolina. Ah, ma quella bobina che è una bobina, L'hai vista questa bobina? Che a una parte c'è una bobina, l'hai vista? Ce ne ha due bobine, una grossa grossa e una piccolina piccolina. Ah, ecco, due ne ha, due piccole, una più piccola dell'altra. E bobine? Ehi, ne ha una, due... Due, a questa parte ne ha due, perché c'ha due facciate, c'ha. Il modulatore, mi poco parola, vicino al modulatore c'è la LC, c'è. O non ho scritto, guarda non ci sia scritto ALC, c'è scritto ALC, no, non ho scritto nulla e avendo una rete a contatto. Aspetta un secondo. Lo so, infatti il VR8 è USB, adesso mi sono ricordato. Positivo, non sei molto segnale, ne hai poco, Gianni, ma io già ti ascolto lo stesso, ti ascolto bene. Cosa non ti sente? Franco che non ti ascolta. Negativo. No. Cosa negativo? Non c'è scritto il negativo. No. Ma aspetta, ma c'è scritto in un trime mi, a fianco alla visione a un trime, a darà scritto LC, no, vedrai il registro nazionale logo LC, vicino a qualche trime lì, vicino a uno di quei due modulatori, ne sono due, uno è per AM e uno è per USB, sono due modulatori. È copiato, Fra? Sì, che ti ho sentito, sto guardando, ma negativo, non lo trovo. Niente. Allora, hai detto che ce ne sono due di quelle bobine. Tu, da una parte hai visto che ne ha dietro due trime, nell'altra ce ne sono trime vicino, nell'altra bobina. Allora, su questo della destra più avanti ne ho due, e due ne ho nell'altra bobina, ce ne sono vicino, ma non tutto vicino alla bobina, però più distanti sono. Però, capito, si può vedere ugualmente grandimento e si vede bene, ma questo proprio del C, niente. I 5, cioè, aspetta il giro, cioè un T5 e cioè, ecco. Il 5 qui ai tabacchi, se lo vediamo. Nulla, non fa niente. Bianca lo crimine non è scritto nulla, vero? Non è scritto VR che cosa, no? Non è scritto nulla. Sì, allora, c'è un VR, un VR 4 e un VR 5. Ah, uno è la VR 4 e l'altro è la VR 5, abbiamo compreso. E invece l'altro è VR 8 e VR 6, giusto? E VR 7, giusto? K, VR 7 e VR 8. Sì, guarda. Allora, tu guarda tutti quei dream lì, tu avvedami, se mi vedi altro di questi dream, avvedami e dimmi cosa vi è scritto. Ma c'è più uno che è scritto VR14. Ci sono tanti questi dream vicino in giro che li vedi tu. Avveda se mi nega qualcuno che è scritto VR14. No, per me è vero. No, neanche uno. Questo è un RV, non sono VR. Vabbè, cosa è? RV, cosa avete detto? RV, così è. Allora, tu dovresti fare una prova solo. Tu, attaccandolo a provare, solo quello puoi fare. Provandolo solamente e guardandoti, sempre c'è quel cacciavite fatto apposta, te l'ho detto io, e vai su quelli che c'hai vicino alle cose, e guardate la posizione, invece provi a toccare poco a poco, io mi accorgo della differenza. E dico, no, quello non è, rilascialo com'era. Capito? Poi c'è un'altra cosa. C'è due cose in plastica. Tutto prima, non so, però sono in plastica. Allora, uno è RV2, RV2 e RV1, sono i due, poi c'è un disco di logga, no, questo è un RV3, questo è un RV9, no, niente, uno da due, via in cui, e va bene, niente più, sono io, è positivo, comunque dietro vicino dove attacchi la corrente, in fila in chibi non ve ne sono di trime, non ha in fondo, in fila non ve ne ha trime, andarete in coda a parte di darete in fondo, questi ve la da cose non ve ne è trime, no, non se ne vede, andarete in fondo. No, dove è stata la corrente c'è non c'è lì, c'è un coso, come si chiama, c'è l'alimentatore, c'è basta, non c'è altro niente lì. Questo c'ha, si può attaccare anche a 24 volt. Addirittura può attaccare in camera a 24 volt. C'è un coso che c'è scritto, allora, 120 volt, AC 50 e 70 MHz, 75 watt, e 13,8 in risolto invece, ovviamente è 250 volt, un coso, e probabilmente si può attaccare anche alla corrente. E aspetta, dicendo già, ecco. Com'è già, funziona a 110, ho capito che funziona a 110, allora io ho già capito che 13,8 è la corrente che devi attaccare all'alimentatore sotto, l'altra è che lo devi attaccare lì, collegare lì, Franco, l'altra mi pare che è a 110, invece tu mi stai dicendo che è a 250, massimo 250 gli dice dietro, scritto, 250 puoi attaccare a 220 allora. Se c'è scritto 2,50, però tu dove c'è scritto 13,8 attacca l'equipo all'alimentatore così non sbagli. Sì. No, no, 2,50, 2,50 era il conto del fuggitile, non ho sbagliato io. È così come ha detto Gianni. E ha già Gianni, ti ho capito, no, no, già è così come dici tu, non se ne accorta adesso, dai. No, non va a toccare, attaccare quella che ha due zitti, ma sento quanto abbiamo a fanculo, 110, 115 che andava, ma metto quanto cazzo. Comunque lo attaccalo sempre. Se tu lo puoi provare, lo puoi attaccare adesso col microfono, e fai un passaggio, a me ne voglio sentire come esce, se lo puoi provare prima che andiamo a far fissa, no? Ma io sto chiudendo e la trovo. Accadono un attimo e vedi. Ma le mai tu QR5 c'è lì, hai detto. Sì, ma lì c'è la radio che passa, secondo te? Ma era visto, sei un segnale che sei quasi 9:10 e la radio è super 5. Opra. Vediamo se ti ascolta Gianni. Gianni, l'ascolti tu. Stai usando il microfono originale, quello bianco. Va bene, ascolta a me, se ce l'hai aperto tu tutto le baracchine. E chi lo sa più che altro? E viene all'interno, mi si vedete io, aprirà. Allora, in poche parole, QR1 regola lo switch, ti regala lo switch. Capito? QR2 per la TV USB. QR3 e lo QWERTY della USB non si tocca, QR4 AM lo QWERTY, QR5 registro frequenza, tu per fare QR5 chili. E QR5 registro frequenza FM, QR7 potenziometro spostamento della frequenza in banda laterale, il QR7 è un po' caldo. Il QR8 RF Panel Power regola lo smith in trasmissione. Hai capito? In trasmissione regola lo smith, capito? In trasmissione. Quando tu schiacci te lo puoi abbassare, sollevare a 9, a 6, a 8, ma non lo tocca. QR10 sono i finali bias, QR16 sono recensione e trasmissione, non devi toccarlo, QR14 la modulazione, QR13 è potenza batti in AM e QR12 i batti in USB ALC c'è scritto. Comunque, anche il QR12 ti aumenta le batti in USB, invece il QR13 ti aumenta la potenza dei batti in AM, capito? Secondo apparato, e tu mi fai ne avevi uno, il QR2 ci sono i batti in banda laterale, te ne aumenta quello lì. Stai uscendo bene, io ti ascolto bene, Fra, ti ascolto benissimo, capito, io ti ascolto bene qua, con questa è una bella radio pure. Allora, ti ho detto che c'erano due parti, l'hai provata, perché sei 9:10 qua, il segnale è 9:10. Ti sono arrivando a te adesso in poche parole, che c'ho il questo, c'ho tutto chiuso, le cose fatte e via dicendo, quanto ti sono arrivato? Va bene, Fra, va bene, come radio per bella, va bene. Paolo originale. L'originale non va. eccetera. Alla prova va bene anche questo. Ecco, va bene. Va bene anche il tuo originale. Va bene, lo avete sempre voi. No, comunque va bene, va bene. La radio va bene. Cavolo se va bene. necessario perché è tenuto costoso, però non è malvagio come corso, non è malvagio, no, infatti si possono sì, che poi mi sembra strano che sia andato solo con questi pochi passi, perché almeno a 4 dico che arrivi fino a poi bisogna vedere che finale c'ha pure, se c'è un finale o dice adesso c'era il chiuso, diciamo per 69, cosa c'è di finale quella radio lì? No, non però va bene come Flaratina, è bella la radio, no? Comunque non soffro, va bene. Poco fa mi vi più 5, così soffro, provalo nuovamente. Quella pare rotondo che c'ha di di ferro, quella rondella, io gliela tolgo e gli metto il cottone, e gli vuole cambiata la capsula e vuole messa quella verde, invece se ne marrò dietro, quella verde ci va, e allora l'MP più 4, se gli metti quella verde è una bomba. Quelle che dove studio, quelle che sono più giusto, non posso dire più di quelle lì, di quelle che ci avete visto a queste. Verde, mi spedi una ne ho verde io. Una verde ne ho. Per il microfono, per me più 4 o più 5, una verde. Adesso la marrò, no, la capsula dietro c'è il marrò e c'è il verde, la capsula che c'è dentro dovrebbe essere sotto, c'è una capsula del microfono. Quella se tu gli metti il verde aumenta una cosa e si testa più e come qui, questo è il 20 più 5, vedi come esce adesso, con quella capsula lì. Niente, si trova per quei telefoni che si dà una bottega. Lì dentro era. Capito? Una me l'ho vista adesso, guarda, anche se te l'ho vista, che è parata forse Massimiliano, qualcuno, ha procurato anche questi telefoni. Capito? Io le ho messe qua nelle MP più 5, capito? Poi la può mettere nel MP più 4 e ne ho fatto tante con le MP più 4 come ho sempre venduto quei microfoni lì. E ho visto una c'è, e l'ho vista adesso, l'ho vista proprio in questo momento, ma questo cassetto per me. Attenzione sul canale 5, cambio! Gli hanno regalato a Francia, l'hanno fatto qua. Ma tutto qua adesso l'ha provato, non è che c'è un granché forte, perché è chiaro, è abbastanza comprensibile, va bene lo stesso. Sì, va bene, va bene. Questo è il Zodiac 50-24, 23 canali con l'MB più 4. Ah, Dio, tu lo sai, anche se ti dà un tocchi-tocchi, non cambia, con te non cambia niente, capito? Anche se ti danno uno di quei tocchi-tocchi a parlare, e c'è sempre bene con te, lo sappiamo, non dire che te. Lo sappiamo, ed è la voce, capito, Claudio? Però lo sai, tu, non te lo ricordare, intanto tu lo sai che noi lo sappiamo, lo diciamo te. E questo è quello che hai cambiato il connettore Tumi. Però anziché usare il TN più 3 sto usando l'MB più 7, non più 4, scusa, perché è uguale a più 4, però è un più 7. Capito? MB più 7 da tavolo col Zodiac B50-24 base. E questa è la mia modulazione. E ti dirò che questo l'ho comprato nuovo, e proprio uno stock di magazzino, perché ne sono usciti pochi e non l'ho mai toccato, non c'è manco cotone, niente, assolutamente niente, originale come mamma l'ha fatto. Sì, no, va bene, qua, no, invece questi qua, stavo da fanno, con quella rondella che ti hanno detto, tende ad essere metallico, questo mio, ti ricordi quando sono provato, tutti mi dicevano, è metallico, metallico, e sente mi sono guidato le mani, la giocavano, lo cosa giù con il cottone, e gli ho cambiato anche la capsula, e adesso non è più metallico, adesso va bene, anche se è chiuso, perché l'ho chiuso per il fatto dei negozi, credo che sia aperto, non so neanche io, perché si apre il Michigi, vedi qua, adesso gliel'ho aperto e la cosa cambia, vedi come anche infatti sono passati pure. Eccomi al radio, ciucciu, quando apri apre, quando apri apre, no, questo Michigi non ne ha, è un vecchio, già lo sai qual è, già gli hai fatto tu la modifica, e quindi niente, capito, è sempre questo qua, e lo alterno un po' col Turner più 3 e con questo MB più 7. Va molto molto bene. Va bene, un abbraccio a tutti, ciao Gigi, un augurio a te famiglia, Gianni altrettanto, a te famiglia, Franco, a te famiglia e chiunque fosse in ascolto qua da Claudio Sparviero, vi lascio che sono in Fornelli, vi ho sentito e sono entrato a salutarvi. Buona serata a tutti e buon Natale a tutti, avanti Franco. Famiglia e Alex, ci sentiamo anche domani, dai, vediamo gli altri anche domani. Avanti Gianni. Ciao raga, va, ciao Claudio, buon continuo serata. Nuovamente di nuovo gli auguri. Avanti Franco, Franco, cosa si fa di bello stanotte? Sono io pochi che è buoni e tanti e cattivi. Mamma mia, quello che è triste. Vabbè, io ho cammellato in questi giorni forte, forte, forte, che non ce l'aspettavamo quest'anno, ma quasi alla fine tutti di colpo si sono svegliati, meno male. Abbiamo fatto una vendita clamorosa. Tutti i pesi natalizi, limite, non vedi nulla. Tra queste feste si sbilanciano un po', poi magari fanno la fame. Gambeloni, carrozze, tutto grande. E poi se si può fare anche io, infatti se lo volevo dire anche io, devo dedicare altre cose, dai, vedere un po' come organizzarci, dai, tanto sto dicendo con miei figli io e anche ieri notte, dico la verità, anche ieri notte eravamo in festa, abbiamo finito tardi che nel compleanno dei miei figli e abbiamo festeggiato ieri notte. Barrotto, furi e abbiamo finito a tardi anche ieri notte e abbiamo già un po' esagerato mangiando e qualche bicchierino anche in più ieri notte che abbiamo già iniziato a festeggiare da ieri notte, capito? Faccio un po' di cose, però dal 27 ottobre tra Vaglietti sto facendo i turni, questo cavolo di nave di Caipone assieme a Santo, è un casino, e qualche volta sto facendo anche la notte, e niente, sono dal 27, sto fermo fino al 27, mi rilasso un po', già sto facendo roba in garage, perché sono mantellato, sono fatto di giro, ho fatto anche un po' stasera, un po' di tracce di cose, lì di cose un corrogato, un po' cementato, e sto tutto smantellato quel garage che c'ho, e sto lavorando un po' lì, dai, adesso infatti c'ho tutte le cose dove lavoravo, lì facevo qualche lavoretto di paracchino di cose, perché ho portato tutto, sto finendo, dai, sto facendo lavori lì in garage, capito? E ho staccato tutto lì, c'è il capo, mi hai messo fuori, e ho staccato tutto, tutta l'alimentazione, tutto quello che c'era dentro tolto, perché sto facendo i lavori, capito, sto impalancando bene la bovita, luci e cose, sto passando tutto bene, acqua, sto facendo la cucina nuova lì, dai, una cosa nuova, tutto a nuovo, ho facciato le seminette, Claudio, è stato più caminetti, non ci sono più dentro, Claudio. Ci sono oggi? E ai, lo farò giù ciclo di me. Fino, fino, ce la vediamo stanna, si fa della notte, della Corea, e ai, dopo dove? Io vado, non posso dare 4, dalle 4 alle 2, non posso 27, poi mi rifugio e ripiglio, non lo so, quindi mi ramazzano, dopo. Mi hai chiamato oggi? No, stavo dicendo a Franco che ho tutto smantellato il garage, tutto buttato giù, ho rimasto solo le mura, buttato giù anche i caminetti, tutto, l'avandino, l'avello, la piccata, tutto, tutta a terra ce l'ha fatto, tutto, ho smantellato tutto, non c'è più nulla dentro, è diventato riparo e lo sto rifacendo a nuovo. Ah, questa è una bella notizia, allora ricordati che la cameretta davanti alla finestra fa a me. Positivo, positivo, ho chiuso anche la lascia la serrana, ma ho chiuso, ho aperto la porta dall'altra parte, ho aperto già la porta vicino a quel bagnetto e ho aperto la porta, è tutta in lavorazione, è tutto, non c'è più nulla dentro, però i cagnetti sono buttati giù, buttati giù non ci sono più, detto, farò tutta la cucina, farò una tavernetta, una cosa fatta come si deve, là. Farò una cosa come si deve, già ho allargato le finestre, ho aperto una porta, vista che c'era quel bagnetto, la porta l'ho fatta lì adesso. Quel progetto che avevi, dai, quel progetto che avevi, il programma che era da fare. Benissimo Gigi, va bene, anche perché è un peccato quel posto, è veramente molto bello, puoi stare tranquillo e sereno, ricevere chi ti piace senza rompere scatole a casa. Ok, dai, sono corso quando ho sentito il mio nome, sono ai fornelli, ci sentiamo, un abbraccio a tutti. Ciao Claudio, ciao. Buonasera anche a te Franco, dai, e buon continuo serata a te famiglia, dai, tanti auguri. Avanti G. E a Fra, dai, già ci sentiamo, dai, già lo guardiamo un momento quell'apparato, lo guardiamo, dai. Buonasera, che dirti, tu devi alzare presto, so che hai boccato il burumito, devi dare 4, ma farlo duro da travagliare, e allora non aspetti a mezzanotte a prendere, vai a letto prima allora. se Masse o Versale, cosa c'è? Versale c'è, sì, perché c'è anche Masse, uno è questo che sto dicendo, il magazzino c'è, sono tutti e due lì, chi è? Ma no, già c'è anche Bersani dentro, perché a volte carico io da Cagliari il ferro e lo porto lì al magazzino centrale, c'è Bersani, lo faccio per me, a volte Bersani, sì, a volte Matrica, ma capite già molti nati, un po' uno è parlato, ma tutti e due, compresi. Tu hai capito cosa l'ha portato a Giuni, portano a Mirko e a cosa si chiama Giorgio, uno è Patrica e uno è Versale, devi tu avvisare. Matrica e uno è Versale dei due, capito? Uno va a qualsiasi magazzino, la fate da barracca che si deve essere spogliato io, cosa che ha a dritta, questi tre, però è una di barracchetta e chi uno così, Giorno e Chivi, e Mirko è in fondo dall'altra parte, ecco qui, in fondo, bisogna divisori vari. Infatti pure uno dei gestori di vita, infatti gli inglesi va a dare un magazzino. Avanti già, sì, anch'io sono un po' chiuso tutto, dai. E dai, tanto dice, devi chiudere, io sono quasi arrivato, va. Non ti mettere problemi se devi andare a cucinare, a fare. Ti auguro anche a te un buon Natale, a te famiglia, divertitevi se bevete poco, perché sennò poi si riempie la pancia. E così ti ho dato, sì, io ho bevuto pure le notti del compleanno di una bella battaglia dei conti carra russo alle notti, e quando mi chiedo se di vino sono tutto quando mi sala. Abbiamo anche festeggiato come fosse un Natale ieri notte, che eravamo qui, e ieri ce l'avamo ieri notte con una crespetta, ragazzi, amici di loro e via dicendo. E abbiamo fatto una bella russita alle notte, dico la verità, una bella russita ieri notte. Con la verità che ce n'è una fila enorme e ce l'ho messa in frigo di carne che è rimasta da ieri notte, quindi è una fila manna in frigo, se ne risponde a metterlo in frigo perché non so come fare adesso. Ciao ragazzi, vabbè, la festa doppia, erano due compleanni, quindi avete voluto bere doppio. Positivo, dai, positivo, abbiamo anche la birra fatta artigianale da un amico che la fa, dai, la fa per casa per lui, quella birra scura nera e buona, fatta capo, era buona veramente, con la verità ha fatto l'ultima birra, avrà preso il preparato, non so come la fa, però ho fatto la bionda e la nera era quella ultima, mi è piaciuta molto, dico la verità, e la ultima birra l'ho bevuta, dovuto due o tre bicchieri di notte, molti gradi se la beva, però dico un'ultima birra, veramente un'ultima birra, l'ho bevuta prima di mangiare, dai, prima di cena, così è un'ultima birra, fatta da lui. No ragazzi, andate, meglio così, sì, ma in casa la fa questo. Sì, io lo. È uno che lavora dentro l'IC, è uno che è della informatica, mi fa un versante, non so che cosa, tu che lui è un dipendente di lavora dentro l'IC, è un amico di Grossi, dai, sono. Lui è sposato di Alghero, però mi ha fatto, dai. E sono amici, dai, sono. Sono amici, dai, sono. Sono amici, dai, sono. Sono amici, dai, sono. la fa questa cosa, la questa pietra, come la fa tutto il giorno? E prende tutta la cosa, la, la della temperatura per farsela e la fa. Ma di nuovo si fa dire, questo è veramente ottimo, che avete tutti gli altri, col nome suo, il nome si è fatto pure della bottiglia, capito? Proprio alla grande l'ha fatta, minuziosamente. Vabbè Gigi, io ti saluto di nuovo, auguri, sono arrivato a casa, mi devo cambiare, fare il bagno e ricevere di casa. Ci sentiamo, statemi bene tutti e divertitevi. Oggi sì, questa notte quando sto mangiando per vedere ho pensato a te che sei in chiesa ascoltando e pregando. Capito già. E l'anno scorso ho trovato a Barraghico, lo sai. ma non so come mai capitato lì, dai, non lo so, è volante, ma no, non penso tu. Va bene, Gian, dai, auguri a te in famiglia, dai, che devo chiudere, dai. Ah, passiamo di nuovo, ci sentiamo, dai, sto finendo.